Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Francesco Notarangelo di Mescalito Film per presentare il documentario Fragile Equilibrio di Guillermo Garcia Lopez, on demand dal 20 al 22 maggio 2020. Francesco, ben trovato. E salve a tutti, ciao Federico. Lo descriviamo? Ma certo, assolutamente. Allora, è un documentario che, grazie alla presenza come attore principale di Pep Mujica, che tutti noi conosciamo come ex presidente dell'Uruguay, racconta cosa succede nel mondo attraverso tre racconti principali che si snodano tra di loro e che offrono uno spaccato crudo e sincero del nostro mondo e delle, direi, anche tante ed inutili contraddizioni che lo abitano. Quindi vuole gettare uno sguardo crudo e sincero attraverso, diciamo, anche soluzioni nelle quali migliorerebbe il nostro modo di vivere. Quindi ad esempio mostra un campo di rifugiati che è presente tra il confine tra la Spagna e il Marocco, Madrid, che come la gente vive quando una crisi economica sovrasta i cittadini, e Tokyo, con una città opulenta che cerca di trarre il massimo del profitto possibile attraverso ore e ore di lavoro, quindi adedita al consumismo più sfrenato. Cosa avevi apprezzato di questo lavoro? Ma allora, devo dire che è stato scelto fondamentalmente per la presenza di un grande come Pep Mujica, che ha sempre cercato di dare delle lezioni a tutti noi esseri umani, il fatto di riuscire a condividere il più possibile, il fatto a considerare non il denaro la dote più importante, ma il tempo, e credo che questa sia una delle espressioni maggiori. E poi il fatto che getta appunto uno sguardo crudo e sincero sul mondo che ci circonda. A livello internazionale, che risposte aveva avuto quando uscì? Ma assolutamente buono, ha vinto diversi premi in giro per il mondo, è stato distribuito in Spagna, in Francia, in Germania e in Uruguay. Quindi direi che come prodotto è molto molto valido, anche perché se no non l'avremmo preso. Conosciamo altri lavori dello stesso regista? Allora, è un'opera prima, al momento lui stesso sta lavorando a un altro documentario del quale non ci ha rivelato nulla, nonostante gli abbiamo chiesto alcuni dettagli, perché magari volevamo provare a entrare in produzione, però non ce li ha svelati. Quindi so che al momento è al lavoro su un altro prodotto, speriamo che sia valido come questo Fragile Equilibrio. Come mai questa modalità di una 3 giorni? Fondamentalmente vogliamo provare a dare possibilità al nostro pubblico di seguirci. Oltretutto stiamo ricevendo diverse più richieste appunto per Fragile Equilibrio, che era un prodotto che abbiamo selezionato già diverso tempo fa, ma al quale non abbiamo mai trovato uno spazio per farlo uscire. Visto la crisi che stiamo vivendo, abbiamo deciso, e in occasione del compleanno di Pep Mujica, che è tra una settimana e il 20 maggio, abbiamo deciso di omaggiarlo appunto mettendo on demand il film per 2 giorni. Ovviamente a un costo del biglietto non i classici 6, 8, 10 euro, ma 5 euro, nel quale appunto sarà possibile vederlo. Abbiamo già creato un evento su Facebook, quindi ci auguriamo che vada bene. E diciamo che poi, se l'esperimento dovesse andare bene, stiamo prevedendo oltretutto di far uscire altre opere che abbiamo acquistato nei mesi passati. Come Mescalito, come state facendo fronte alla quarantena e alla chiusura delle sale? Beh, diciamo che ci stiamo impegnando su ulteriori fronti che al momento non mi va di rivelare troppo, ma siamo lanciando un festival che è il Biopic Film Festival, stiamo mettendo online tutte le opere al momento uscite e abbiamo fatto appunto per, come dire, regalare momenti di spensieratezza al pubblico, abbiamo mandato online gratuitamente l'ultimo di Jodorowsky che abbiamo prodotto al film, al cinema, e questo ha avuto circa 4.000 visualizzazioni in 2 ore, e poi stiamo, diciamo, sviluppando modi alternativi di portare nuove opere al pubblico. Oltre ovviamente stiamo selezionando e guardando quanti più film possibili per la stagione che speriamo si possa riaprire in tempi molto brevi. Ci lasci tutti i riferimenti? Ma certo, assolutamente. Ovviamente il sito Mescalito, dove appunto ci sarà anche la nuova voce on demand, dove sarà possibile rivedere tutti i nostri film. Che ci sono due eventi già aperti su Facebook con oltre 400 persone interessate. E poi nel caso di mandarmi sempre la solita email, che è checkondr@yahoo.it oppure mescalitofilm@gmail.com. Fragile equilibrio di Guillermo García López, on demand dal 20 al 22 maggio 2020. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Notarangelo di Mescalito Film. Un abbraccio. Grazie, e a presto. Grazie a tutti voi, grazie, a presto. Con Simone Amendola di Blue Desk per parlarci dell'iniziativa da lui promossa che ha messo online alcuni titoli proprio di Blue Desk online free. Simone, ben trovato. Ciao, ben trovato a te, ben trovati tutti. Raccontaci un po' di questa iniziativa. In questa situazione liquida che abbiamo vissuto, abbastanza complessa, dopo 15 giorni ho visto che appunto annaspavamo un po' nella rete, nel senso che appunto diciamo non volevamo, penso io non volevo, ho immaginato che tanti non volevano essere schiavi delle piattaforme, e quindi mi è venuta voglia intorno tipo al 15 marzo, al 20 marzo, dopo una quindicina di giorni, di condividere un primo lavoro, che è questo mio documentario Alicia nel Paese delle Meraviglie, che aveva praticamente già 10 anni, cioè quando mi è venuta l'idea mi sono reso conto che erano 10 anni esatti da quando era uscito, e ecco, un lavoro appunto che ha circolato molto, è andato anche in Rai, però poi diciamo superato l'arco dei primi 2-3 anni, in qualche maniera ho pensato che tante persone non l'avevano visto e magari altri che invece l'avevano visto gli avrebbe fatto piacere rivederlo oppure girarlo a qualcuno, e quindi niente, quindi ho messo online quello, ma senza, devo dire, immaginare nemmeno la risposta, ecco, un po' a sensazione. E invece ho visto che c'è stata una grandissima risposta in termini, da una parte, di ringraziamento, nel senso che poi alla fine è stato un modo per essere vicini, ecco, e poi anche appunto proprio di interesse ad avere dei contenuti culturali in più da vivere. La cosa è stata bella, un ritorno in tutti i sensi, quindi poi diciamo si è aperto questo file di il nostro contributo. Al momento io resto a casa, mio e poi quello di Blue Desk, che praticamente ha coinciso poi con un'altra cosa, perché nel frattempo Daniele Timpano e Elvira Frosini hanno iniziato a curare questa rassegna resistente di teatro in streaming, che l'hanno chiamata Indifferita, quindi hanno iniziato diciamo a mandare i video degli spettacoli più significativi degli ultimi anni, delle compagnie più significative, e hanno chiesto anche appunto a me e a Valerio Malordi se volevamo dare un lavoro, quindi noi ecco con grande piacere abbiamo messo a disposizione lo spettacolo L'Uomo nel Diluvio, di cui proprio a dicembre in una delle ultimissime repliche avevamo fatto finalmente una buona ripresa, perché poi ecco il teatro poi in video soffre molto di quello. E quindi diciamo il 20 marzo il primo titolo Alicia, a fine marzo questo secondo titolo lo spettacolo. Pure lì c'è stata una risposta veramente incredibile, nonostante fosse teatro. Io mi sono reso conto appunto, a parte il web, però mandando un semplice WhatsApp in cui avevo scritto stasera serata diversa si va a teatro, con grande leggerezza, però è stata colta ecco con quella leggerezza che era diciamo una cosa positiva, sì appunto dai, un momento di vicinanza un po' diverso. E quindi praticamente ecco questi due titoli. E poi un'altra coincidenza, nel senso che il 16 aprile erano 3 anni che aveva debuttato questo documentario che ha fatto Gloriana Pinto, sempre nostro di Blue Desk, che si chiama 2 o 3 cose che non so della malattia mentale, È un documentario appunto che era nato all'interno di una mostra al Vittoriano, perseguitati, schedati, diciamo il trattamento dei pazienti psichiatrici e dei disabili durante il nazifascismo, e lei aveva fatto questo documentario di 25 minuti molto toccante in cui entra in una comunità terapeutica e poi ruota un po' attorno al tema con delle interviste. Quindi erano i 3 anni e la Netfort, che è questa realtà di psichiatri che con noi ha prodotto questo lavoro, ha detto condividiamolo, e quindi Floriana l'ha fatto di buon grado e anche lì appunto una risposta bellissima. Quindi è diventato il terzo titolo con una cadenza quasi casuale di una quindicina di giorni di distanza l'uno dall'altro. E poi l'ultimo, appunto, sempre in questa scia, ultimo ma non ultimo, perché comunque altre cose metteremo, però diciamo l'ultimo di questo primo blocco, quindi il quarto, è nato sempre per un altro stimolo, perché praticamente abbiamo fatto nel 2019 c'è un progetto molto grande di cinema, con 5 scuole diciamo del quadrante est di Roma, quindi più o meno gli studenti che arrivavano da Torpignattara a Tor Bella Monaca, un progetto col finanziamento del MIUR e del MIBACT che è durato 1 anno e che ha prodotto un film corale di 40 minuti. È stato un progetto molto ricco perché insieme al linguaggio cinematografico praticamente abbiamo permesso ai ragazzi di incontrare una serie di realtà che lavorano appunto o sulla società o sulla storia o sul genere, quindi hanno incontrato la Casa Internazionale delle Donne, l'AMPI e poi quest'altra realtà appunto di psicologi e psichiatri che si chiama Network. E quindi diciamo tra il linguaggio cinematografico e poi questi incontri la sintesi è stata lavorare su una narrazione che partisse dal sé, dai luoghi che si vivono e dalla società che si vive. E quindi ecco, è nato questo film di 40 minuti, corale, con delle storie che si intrecciano. L'avevamo presentato a dicembre al Cinema L'Aquila, ma aspettavamo marzo per presentarlo con tutte le istituzioni. Marzo è finito sotto il lockdown, quindi tutti i protagonisti praticamente premevano per far vedere, per rendere pubblico questo film, e quindi quale migliore occasione di aggiungere un quarto titolo appunto a disposizione. E ecco, e si è formato questa quaderna molto appunto eterogenea, perché sono 4 lavori molto diversi, 2 sono appunto 2 documentari, uno spettacolo teatrale ed un film di finzione, appunto un mediometraggio di 40 minuti, ancora diverso perché è fatto appunto con tutti gli studenti. Ecco. E ci dai a questo punto tutti i riferimenti web per accedere? Allora, i lavori stanno sul nostro sito, cioè bluedesk.it, oppure se andate sulla nostra pagina Facebook di Bluedesk, c'è una quinta e una sesta cosa. Perché non l'abbiamo ancora messo sul sito, ma praticamente sulla pagina Facebook abbiamo condiviso anche un corto che si chiama La fine dell'estate, che è stato realizzato quest'anno in un workshop che ho tenuto io giù in Salento mentre c'era la prima edizione del Mesapica Film Festival. E poi c'è una cosa molto carina, che è veramente una chicca, è un video di 5 minuti in cui alcuni degli studenti che hanno fatto quel mediometraggio che si chiama Tutte storie necessarie raccontano un po' le emozioni che hanno vissuto durante questo anno di laboratorio e quanto è stato significativo per loro, diciamo, prima che a livello artistico, a livello umano, come a livello proprio di socialità, anche di riflessione proprio su se stessi e di apertura verso gli altri. Quindi devo dire è molto, molto carino. Questo per quanto riguarda i titoli di Bluedesk online gratuitamente. Un saluto e un ringraziamento alla regista Simone Amendola. Simone, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie e buona visione. Con Fabia Bettini, una delle ideatrici di Cinema da Casa. Fabia, ben trovata. Ciao, ben trovata a te, eccoci. Ci racconti questa iniziativa? Allora sì, Cinema da Casa in realtà è nata quasi in modo spontaneo, perché noi vedevamo la nostra città spenta, i bambini ci dicevano non sentiamo rumore, la città è tutta spenta, è triste, e quindi abbiamo deciso, facendo cinema, organizziamo festival, e in particolare Alice nella città, che è una sezione autonoma e parallela del Festival di Roma, di accendere il nostro proiettore e cominciare a proiettare sul palazzo di fronte. Da loro abbiamo iniziato a condividere le immagini, le foto sui social, ed è diventato un appuntamento fisso che è rimbalzato a tutte le latitudini. Ho iniziato a farlo a Parigi, ho visto che Berlino, insomma, si è interessato, ora fa il cinema nei condomini, l'hanno fatto a Manila, e con noi tutte le sere proiettano alle 22 Bologna, Torino e la Sardegna. Bisogna avere un proiettore? Si partecipa in tanti modi al cinema da casa. O c'è un proiettore e si proietta alle 22 degli spezzoni di film, perché noi proiettiamo sequenze dei film che amiamo di più, oppure si può decidere di seguire in diretta, e quindi molti scrivono i film che vorrebbero vedere e siamo noi a proiettarli per loro. E quindi è iniziata un po' una programmazione a quattro mani, in cui molti mi chiedevano di vedere un film oppure un altro, e poi si seguivano in diretta alle 22 sulla pagina Facebook e Instagram di Alice, e noi proiettavamo i film che ci avevano chiesto. Come ha funzionato poi la rete rispetto alle iniziative sparse un po' su tutto il territorio e anche all'estero? La rete è stato un amplificatore, nel senso che all'inizio sono rimbalzate alcune fotografie e alcuni video, e poi piano piano ci hanno contattato da tantissimi paesi e da tantissime città, quindi è iniziata una rete all'inizio di amici come la Finestra di Torino o quella di Bologna, ma poi è diventata a macchia di leopardo. Per esempio ci hanno contattato dei festival da Palermo, ci hanno contattato altri dal Vietnam, addirittura l'Albania. È diventata una sorta di comunità che non ci conosceva, ma che grazie alla rete e grazie un po' alle trame dei film è riuscita ad arrivare rimbalzando di bacheca in bacheca molto lontano. Ci sono anche alcuni che non sanno da dove è iniziato il cinema da casa, ma a noi questo poco importa. Quello che ci interessa è che in 60 giorni abbiamo alla fine creato una comunità che forse ha avuto il suo momento apicale il 24 sera nell'evento di Finestre Resistenti che abbiamo fatto assieme anche ai ragazzi delle Sardine di Bologna, alla Cineteca di Bologna, al David di Donatello, con cui abbiamo acceso 110 finestre in diverse città e abbiamo proiettato i film della Resistenza. Quindi alla fine è stato un modo per stare assieme, per tenerci uniti, e adesso che siamo nella fase 2 è un segnale per tenere viva l'attenzione per il cinema. A noi ci interessava un po' cercare di tenere viva l'attenzione fino a che non si torna in sala. Abbiamo acceso la prima luce, la prima insegna in un cinema a Roma, siamo contenti che oggi si accendano tutte le luci dei cinema in Italia, e l'idea è quella, siamo uniti e cerchiamo di pensare al futuro, ma siamo vicini. Ogni giorno si dà centralità a una finestra in particolare o si mettono in relazione tutti gli eventi? Prima, fino al lockdown, tutte le finestre proiettavano alla stessa ora e lo facevamo in contemporanea. Adesso con la fine del lockdown ci torniamo, quindi noi torniamo domenica e facciamo una programmazione insieme ai lettori della Gazzetta dello Sport, che stanno votando i loro film del cuore, e quindi saranno film sportivi, quindi cinema tema sport. Il programma si trova sulla pagina Facebook di Cinema da Casa o di Alice nella Città, dove ci sono le info su tutte le finestre che proiettano per seguire tutte le sere qualcosa. Ogni finestra immagino che abbia un condominio di riferimento. Beh sì, diciamo che ogni finestra ha un condominio di riferimento, o a volte hanno anche semplicemente banalmente un palazzo di fronte, perché alcuni hanno dei cortili interni e quindi diventa un po' più comunità, altri hanno semplicemente insomma dei rimpettai pazienti, ma è una sorta di tableau vivant, è come se in questo momento tutti abbiano un po' voglia di sentirci parte di qualcosa, aiutato tutti un po' a trascorrere delle giornate che sarebbero state molto noiose. Quindi devo dire che c'è molta empatia e molta simpatia intorno a Cinema da Casa. Cosa si sta sviluppando? Al momento una rete di persone con cui ci troviamo accomunati da una passione comune, e si sta sviluppando sicuramente appunto una conoscenza anche profonda di quelle che sono le passioni degli italiani per il cinema e di quanto forse anche il cinema del passato faccia parte di quello che è il nostro patrimonio culturale. Insomma, mi fa piacere perché si va a ritroso e si ritrova davvero tanto e ci si rende conto di quanto il nostro paese in realtà abbia da offrire, soprattutto appunto dal punto di vista cinema. Abbiamo riscoperto e rivisto alcuni film che uno non si ricordava e che invece sono davvero magici, insomma ti incanti a vederli e rivederli, come Miracolo a Milano, Una giornata particolare, oppure Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, insomma è davvero un piacere. Cinema da casa, un saluto e un ringraziamento ad una delle ideatrici, Fabia Bettini, i riferimenti ce li hai dati, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, un saluto al lupo e a presto, viva il cinema, ciao. Con Lara Rongoni, regista della serie Stili Ribelli, in onda su Sky Arte il 6 maggio, il 13 maggio, il 20 maggio in doppia sessione, si tratta di 6 episodi. Lara, ben trovata. Grazie a te, grazie a tutti. Ci racconti? Stili Ribelli è una serie in cui in ogni puntata, partendo da un capo d'abbigliamento iconico, ce ne racconta la storia e le sue connessioni con il cinema, la moda, la società, ma soprattutto con le sottoculture musicali. Come era nato tutto? L'idea nasce da una trasmissione radio che conducevo con un'amica, dove appunto creavamo delle playlist musicali a tema ispirata a qualche capo d'abbigliamento. Dopodiché, siccome la radio era solo una passione, ma il mio lavoro appunto è occuparmi di televisione, di documentari, ho adattato il format radiofonico al linguaggio televisivo ed eccoci qua. E come hai individuato i vari capi, i film, le musiche? Beh, allora chiaramente c'è stato un lavoro di sviluppo molto lungo, ho fatto tantissimi, diciamo, abstract di tanti temi, perché comunque di indumenti, di accessori comunque iconici ce ne sono tantissimi. Dopodiché con Sky Art abbiamo deciso di partire da 6 e quindi ho dovuto concentrare la ricerca, diciamo, su 6 e tra la lista degli intervistati, tra i materiali d'archivio che avevamo trovato e tra tutta una serie, diciamo, di questioni produttive, poi alcune anche autoriali, perché su alcuni oggetti li volevo fare a tutti i costi, mi sono, diciamo, imposta, abbiamo preparato il tutto, ecco. E rispetto, ecco, alla scelta dei generi musicali? È nata spontaneamente in base al capo d'abbigliamento, nel senso che, per fare un esempio, parlando della minigonna, che comunque nasce negli anni 60, nel periodo della Swinging London, non potevamo non parlare di tutti quei gruppi che fanno parte della British Invasion, della Swinging London e quindi anche del fenomeno della sottocultura Mods. Stessa cosa per il chiodo, non si poteva non parlare, diciamo, degli anni 50, perché lì che è nato il suo utilizzo, e poi chiaramente del punk, perché insomma è proprio, come dire, dire Ramones e chiodo è tautologico. Stessa cosa per Sid Vicious, quindi diciamo che alcune scelte sono state obbligate, anzi poi quasi tutte. Il legame, come dicevi tu, è tra capi d'abbigliamento, musica e cinema, e diciamo che si è sviluppato tutto un immaginario proprio attraverso la musica. La musica è stato il veicolo principale per lo sviluppo proprio di un immaginario giovanile. Sì, come spesso accade, è accaduto più che altro, soprattutto nelle sottoculture musicali, ascoltare un certo tipo di musica, far parte di un certo contesto, aderire a un certo gruppo poi di persone, fa in modo che tu costruisca un'identità visiva ben precisa, e questa identità visiva chiaramente è collegata ad un gusto estetico. Questo gusto estetico si rifà chiaramente ad una serie di fattori, quali appunto ascoltare un determinato tipo di musica e poi, come dire, le icone a cui fai riferimento, i modelli, a volte anche gli idoli, perché poi diciamo che c'è una forza centrifuga e centrifuga tra e divide il cinema, ma ragazzi di strada, alcuni film importantissimi, ma che poi ciclicamente, faccio un esempio pratico, no? Arancia Meccanica, i gruppi portano le bretelle, da dove sono partiti? Sinceramente è una cosa ciclica, perché se tu parli con Milena Canonero, lei dice che comunque si è ispirata alle bande di strada che in quel periodo stavano nel nord-est di Londra. Allo stesso tempo i ragazzi di strada, che poi hanno creato, diciamo, il loro movimento skinhead, se vogliamo dire, si sono comunque a loro volta ispirati al film Arancia Meccanica, ma erano già le bande di strada che cominciavano, no, a aderire a quel movimento. Quindi è tutto un giro per cui viene rafagocitato e poi alla fine dalla strada va al mainstream, dal mainstream va alla strada, insomma, e si creano i movimenti, queste cose qui. Si tratta di 6 episodi, partendo dal chiodo, il primo episodio, i due epicentri principali sono Stati Uniti e Gran Bretagna. È così anche per gli altri scenari? Devo dirti di sì, nel senso che principalmente per una serie di questioni storiografiche e insite nella società inglese, quasi tutte le sottoculture sono nate in Inghilterra. Il punk, i mod, il Britpop, per parlare di qualcosa di più recente, sono quasi tutte nate lì, quindi molto spazio è dedicato all'Inghilterra, però alcuni collanti ci sono con l'America, ma anche con l'Italia, per esempio, perché parlando appunto dei mods, loro si sono ispirati nel loro abbigliamento anche agli attori del cinema italiano. Loro ammiravano la sartoria italiana, quella che indossava Marcello Mastroianni, e loro adoravano le lambrette, le veste italiane, e quindi insomma sono nate magari lì, però molta dell'ispirazione è stata presa da un certo tipo di gusto estetico italiano. Per quanto riguarda le scelte cinematografiche a tema? Alcune sono, come dire, spizzi miei. Vi faccio un esempio: nella puntata della minigonna, la puntata parte con uno spezzone dell'inizio dell'Uomo che amava le donne di François Truffaut, dove praticamente lui dice che le donne sono dei compassi che misurano il mondo, e si vedono tutte queste sfilze di gambe appunto in gonna, perché è chiaramente l'indumento che le valorizza di più, e secondo me era perfetto per imitare la puntata della minigonna. Altri invece, come per esempio Il portiere di notte, in cui c'è la wrestling con le bretelle, è dovuto al fatto che comunque economicamente parlando era perfetta. Quindi diciamo, alcune sono scelte mie così, neanche troppo azzardate, altre invece perché proprio la storia le richiedeva. Che scoperte hai fatto? Quali in particolare, se ne hai fatte, ti hanno divertito? Ah, guarda, più che le scoperte in merito alle tematiche, erano tutte cose che più o meno già sapevo, e poi perché comunque sono appassionata da sempre, da quando sono bambina, di musica, di sottoculture. Magari nel parlare con gli intervistati ho scoperto delle cose che non sapevo effettivamente, ma ti posso fare qualche esempio. Per esempio, che ne so, Kenny Jones, che è il batterista degli Small Faces, ma poi è stato anche il batterista degli Who, cioè, mi ha raccontato durante l'intervista che in realtà lui, ancora prima di far parte degli Who, lui è entrato negli Who dopo la morte di Kate Moon, praticamente quasi tutti i pezzi più famosi poi aveva partecipato lui alle demo, perché era amicissimo di Pete Townsend, e quindi quando si trattava di registrare appunto la fase embrionale di un pezzo o fare una demo, chiamava sempre lui, e comunque era una cosa che magari non ci si immagina, no? Ci si immagina che comunque lo si faccia col gruppo. Oppure altre curiosità, non lo so, Ben Matlock, che invece era il bassista dei Sex Pistols, ci ha raccontato un aneddoto che, cioè, è stato divertente. Praticamente quando Lou Reed si trovava a Londra con David Bowie, c'era anche Mick Ronson per preparare l'album Transformer, non c'era ancora un titolo all'album. A un certo punto nello studio di registrazione è andato un tipo a cercare di Lou Reed, no? E dice che praticamente lo accoglie appunto Mick Ronson e gli dice: no, mi piace, Lou Reed non c'è. Poi dopo, quando Lou Reed con Bowie sono tornati in studio, lui dice: ma è passato qualcuno a cercarmi per caso? Ah sì, giusto, me ne ero dimenticato, è passato uno, dai, uno di quei tuoi amici un po' Transformer, perché non gli veniva la parola, evidentemente transgender, o forse era solo un travestito, non lo so. In italiano si deciso di chiamare l'album Transformer, questo è quello che ci ha raccontato lui. Comunque è una cosa che non sapevo, è anche curiosa. Stili ribelli, 6 episodi su Sky Arte, il 6 maggio, il 13 maggio e il 20 maggio, ogni puntata in una doppia sessione. Un saluto e un ringraziamento alla regista Lara Rongoni. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille a te, e un abbraccio e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. A presto. Con Rodrigo Diaz, direttore del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste, per parlare della Cineteca online del Festival, con più di 1000 titoli gratuitamente disponibili. Ben trovato. Altrettanto a voi, anzi con tanti auguri, in questo periodo non è banale l'augurio. Ci racconti di questa iniziativa? Sì, è un'iniziativa che cammina da parecchi anni. Abbiamo trovato la congiuntura a gennaio scorso, le condizioni attuali in cui si devono organizzare gli eventi che tutti conosciamo, ci hanno permesso di accorciare i tempi lavorandoci in continuazione. Devo dire che è un progetto che camminava da almeno 15 anni e che finalmente, con un meccanismo stupendo e con una politica di alleanze di un certo tipo, abbiamo potuto offrire questo servizio. Com'è stata intanto la scelta dei titoli? Già sono 1000 e sono delle scorse edizioni? Sì, la scelta in realtà non è nostra. Noi ogni anno, quando invitiamo la gente ad aderire per partecipare al festival, nell'entry form chiediamo, in modo optativo naturalmente, chi vuole partecipare a un concorso premio, che però implica anche accettare che il loro film sia nella piattaforma del festival. Così si sono sommati una quantità di titoli davvero straordinari. Da questo momento in poi possiamo dire che faremo delle scelte. In che senso? Sia con Spagna, con cui abbiamo stabilito un accordo con l'istituzione spagnola, sia con l'America Latina, l'idea che cammina è rapportarci a tutti gli archivi, pubblici e privati, anche perché in questo modo si salva la memoria, perché come diceva un grande teorico latinoamericano, noi nel continente facciamo cinema per l'oblio. Questa è una possibilità di evitare che sia per l'oblio. E quindi avremo persino cinema silente. Abbiamo, credo, una sessantina di titoli che stiamo chiedendo ai proprietari dei diritti o agli archivi di autorizzarci per poter metterlo nella piattaforma. I titoli più storici, chiamiamoli così, che periodo storico coprono? Se pensiamo al cinema silente, ti dico tutto. Poi, naturalmente, questo progetto parte nel 2005-2006, però la gente a cui abbiamo trasmesso il comunicato che ti è giunto anche a te ha incominciato a chiamare e a dire: Rodrigo, io ti metto a disposizione questi film, no? E quindi stiamo lavorando perché ogni film deve avere una scheda tecnica, deve avere una certa informazione, perché chi entra deve sapere qualcosa in più del manifesto o della immagine che appare del film o del titolo, no? Per cui sarà un lavoro che ci impiegherà sempre, nel senso che dobbiamo renderla compatibile con la fase organizzativa del festival, che speriamo, virus maledetto permettendo, di realizzare dal 7 al 15 novembre prossimo a Trieste. Per cui noi abbiamo previsto altri 6 finestre: archivio storico, cinema muto iberoamericano, retrospettive, classici del cinema latinoamericano, film latinoamericani premiati nei più importanti festival internazionali, cioè dei film meravigliosi in questi anni o negli anni passati, che non sono mai giunti sullo schermo italiano, no? Quindi noi stiamo chiedendo le autorizzazioni, i film che già hanno fatto il circuito dei festival, già hanno fatto anche il circuito, diciamo, commerciale. E l'ultimo è il cinema latinoamericano contemporaneo. Sicuramente offriremo un spazio all'interno con un'altra finestra all'associazione con cui noi siamo coinvolti nel Friuli Venezia Giulia, che è l'Arci Servizio Civile, perché loro organizzano qualcosa, un'iniziativa all'anno che riguarda la montagna. E siccome riguarda la montagna del Friuli Venezia Giulia, dell'Endomini e della Croazia, sarà anche molto pertinente in qualche modo offrire una possibilità che permette anche alla gente di contestualizzare il luogo, l'area dell'Italia dove si tiene l'appuntamento che ci ha permesso di costruire questa piattaforma, che è il Festival del Cinema Latinoamericano. La terza fase, e questa molto, è la prima persona che si aggiunge, che è la distribuzione internazionale. La promozione del cinema recente nel festival, che è un film che vuoi che sia conosciuto dal festival che ha programmato, e la vendita delle singole opere. Questa parte la metteremo a disposizione direttamente dai loro produttori o dai loro distributori. E perché sia una cosa trasparente, che sia garanzia reciproca, la stiamo costruendo con il loro intervento, con i loro suggerimenti, in modo che, come dire, ognuno abbia la possibilità di governare quello che avrà dentro la piattaforma. In chiusura, Rodrigo, ci lasci tutti i riferimenti? Tu puoi entrare al sito web del festival www.cinelatinotrieste.org e lì ti viene l'archivio, ti viene Cineteca, ti trovi subito con il film e con i periodi che tu vuoi scegliere. Naturalmente abbiamo il film, dobbiamo mettere un po' di lettura, tentiamo in questo periodo di costruire tutta quella parte che permette che la gente quando entra si possa orientare bene. La Cineteca online gratuita del Festival del Cinema Latino Americano di Trieste, un saluto e un ringraziamento al direttore Rodrigo Diaz. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi e tanta salute. Grazie mille. Con Daniela Persico, una delle curatrici di Locarno Home Festival, i film in streaming delle passate edizioni. Daniela, ben trovata. Buongiorno a tutti. Ci racconti di questa iniziativa? Sì, in questo momento ovviamente anche Locarno ha pensato di essere un po' vicino a tutte le persone, al grande pubblico che riempie in agosto Piazza Grande. Locarno ha proprio come caratteristica il fatto di essere un festival che presenta prime mondiali, però al contempo che ha una forte presenza del pubblico, e quindi ci sembrava particolarmente bello in queste giornate poter dare una nostra di visioni all'interno di quello che ormai è la grandissima offerta già da tutte le piattaforme online. Anche se Locarno organizza alcune rassegne su una propria piattaforma, come è stato il caso della Short Week, una serie di cortometraggi tratti dalle nostre selezioni che ogni anno a febbraio riproponiamo, per questa occasione ci sembrava molto più interessante essere soltanto un tramite, cioè segnalare nelle piattaforme di tutto il mondo come i nostri film sono stati ripresi e sono disponibili. Parliamo adesso un po' della selezione, quali sono stati i criteri, quanti sono i titoli? Allora, la selezione è un work in progress importante, perché appunto non essendoci basati sulla nostra piattaforma, ma rivolgendoci a un pubblico che è prima di tutto svizzero e italiano, ma Locarno è un festival seguito da persone di tutto il mondo. Quindi diciamo che la nostra principale difficoltà è stata quella di poter trovare dei titoli che fossero presenti o su piattaforme aperte a tanti territori, oppure che fossero presenti su diverse piattaforme raggiungibili da diversi paesi. La selezione è quella di Locarno, nel senso che noi stiamo rilanciando tutti i film che sono stati presenti al festival, a partire da dei film più piccoli, che sono quelli del nostro concorso Cineasti del Presente, tra cui per esempio c'è Beach Rats di Eliza Hittman, che potete trovare su Netflix e che è la regista che ha appena vinto l'Orso d'Argento a Berlino, fino ai successi di Piazza Grande come Little Miss Sunshine o The Night of Funeral, mi sembra sia il titolo, di Oz, a Levant Tourne di Bettina Oberli, che è stato presentato quest'anno. Cioè una serie veramente variegata di titoli che possa però andare incontro a far conoscere quella che è la proposta di Locarno, che appunto spazia dai grandi registi del nostro concorso internazionale. Per esempio ho appena visto e segnaleremo nei prossimi giorni che su Rai Play c'è Le Chat d'Hiver di Joselliani, fino a appunto Blaze di Tanook. Veramente titoli diversissimi che però raccontano un festival che è sia il lancio per giovani autori sia ingloba un lato molto più popolare. Sono sottotitolati, sono a fruizione gratuita? Essendo su varie piattaforme di streaming, ovviamente ognuna ha le sue esigenze. Nello scegliere questi titoli abbiamo preferito segnalare dei titoli che per esempio potessero essere gratuiti sulle varie piattaforme, però ovviamente nella varietà della proposta ci sono anche tanti titoli che sono a noleggio con caratteri differenti per ogni piattaforma. Fino a quando? Questa è la domanda che ci facciamo tutti. Questa iniziativa accompagnerà la quarantena, quindi finché non finisce la quarantena andrà avanti nella speranza di ritrovarci quest'estate a Locarno. Ci dai tutti i riferimenti in chiusura? Potete trovare la nostra selezione sia sul nostro sito internet www.locarnofestival.ch, in cui trovate una news in home page, Locarno Home Festival, da cui potete accedere a tutta la lista delle nostre proposte. Ovviamente ogni giorno queste proposte sono aggiornate e rimandate su quelli che sono i nostri social. Locarno Home Festival, i film in streaming delle passate edizioni. Un saluto e un ringraziamento a una delle curatrici, Daniela Persico. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie. Con Claudia Maci del Festival dei Popoli per parlare dell'iniziativa Un documentario al giorno dai profili social del Festival gratis su piattaforme libere. Claudia, ben trovata. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per avermi invitato a parlare in trasmissione. Ci presenti quest'idea? Sì, assolutamente. È un'idea che è nata in una circostanza particolare come quella che stiamo vivendo adesso, di un'emergenza in cui probabilmente si sentiva anche il bisogno di dare ognuno di noi un contributo nel proprio piccolo. Il Festival dei Popoli è da oltre 60 anni una finestra sul mondo e un po' attraverso il cinema documentario negli anni abbiamo sempre creato un luogo di riflessione, di evasione, condivisione, e oggi più che mai in una circostanza in cui siamo chiamati come cittadini a stare in casa e non uscire, in cui siamo costretti a stare lontani, no? Dai propri amici, dai propri cari, ma anche dai luoghi di cultura e di aggregazione come ad esempio il cinema. In un momento come questo abbiamo sentito più che mai il bisogno di una dimensione collettiva, di sentirci uniti nella distanza, e con un documentario al giorno, con un chiamato anche utilizzando anche l'hashtag I Popoli Restano a Casa, nasce questa iniziativa, nasce proprio dal bisogno e dalla capacità della cultura di assolvere un po' questa funzione. Il cinema in generale e il documentario in particolare hanno sempre ricoperto un ruolo fondamentale nella condivisione di storie, nella condivisione di emozioni, e ogni giorno sulla pagina Facebook del Festival dei Popoli scegliamo per voi una storia da raccontare, una storia da condividere con il pubblico attraverso un documentario delle nostre passate edizioni. La caratteristica è che questi documentari sono reperibili facilmente online e gratuitamente, e indichiamo sempre quale link. Di fatto ci muoviamo nella miriade di piattaforme che offrono oggi tantissimi contenuti in streaming e scegliamo in questa maniera un documentario da farvi vedere comodamente in casa. Abbiamo già pubblicato tantissimi suggerimenti, abbiamo spaziato dalla musica, dove abbiamo pubblicato ad esempio il documentario su Glastonbury di Julian Temple, spaziamo all'attualità con documentari legati invece alle migrazioni, insomma cerchiamo di accontentare un po' anche i diversi palati, no? E quindi le storie che raccontiamo possono essere legate anche a diverse sfere della vita. Di fatto continuiamo ad assolvere quella che è la nostra funzione, cioè rappresentiamo come sempre una finestra sul mondo e vogliamo condividere con il pubblico che è a casa le storie, le emozioni, ma anche creare dei momenti di riflessione. In questo momento ci sembra piuttosto importante, e lo facciamo ribadendo anche noi il nostro concetto di Io Resto a Casa. Ci sarà anche qualche forma di interazione con chi vedrà? Stiamo pensando ad esempio di chiedere a ognuno degli spettatori in casa di darci una sorta di feedback, anche perché per noi è importante sapere se poi questi documentari piacciono, se fa piacere vederli, se fa piacere comunque anche avere dei suggerimenti a riguardo. Ad esempio qualcuno ci ha già scritto: ma avete la maniera di farci vedere Un'ora sola di Vorrei di Alina Marassi? A noi piacerebbe, di fatto, muovendoci all'interno di quelle che sono le piattaforme in streaming, facciamo una selezione di contenuti che sono già reperibili gratuitamente. Quello che ci fa molto piacere vedere è anche una forma di interazione da parte degli stessi autori. Tantissimi registi ci stanno contattando in questi giorni, sono venuti a conoscenza della nostra iniziativa e stanno aprendo i loro link, i link che sono solitamente caricati su Vimeo, che è una delle piattaforme più comunemente utilizzate dai professionisti, solitamente sono protetti da una password. Loro in questo periodo stanno eliminando la password e ci stanno fornendo un link in modo tale che per tutti sia accessibile il loro film, e questa la trovo una forma di solidarietà digitale straordinaria. In questo momento ce n'è bisogno. Vi siete dati una data di scadenza? Ci piacerebbe poterlo fare, perché significherebbe anche avere idea di quando questo momento finirà. Ma in ragione per questo non abbiamo voluto fare una sorta di countdown o puntare ogni giorno il suggerimento che diamo a che giorno siamo. Preferiamo piuttosto dire: è un servizio che offriamo finché ce n'è bisogno. Quindi di fatto speriamo che finisca presto, perché significherebbe che staremo in una situazione decisamente migliore di quella in cui ci troviamo ora. Ci dai tutti i riferimenti web? Sì, assolutamente. Potete trovare tutte le indicazioni sulla pagina Facebook del Festival dei Popoli. Scrivendo Festival dei Popoli nella ricerca di Facebook la trovate facilmente, e ogni giorno nel pomeriggio pubblichiamo un suggerimento di un documentario con il link anche alla piattaforma sulla quale potete vedere il documentario gratuitamente. Un documentario al giorno dai profili social del Festival dei Popoli, gratis su piattaforme libere. Un saluto e un ringraziamento a Claudia Maci. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, arrivederci, un abbraccio. Con Davide Oberto, che cura la sezione documentari del Torino Film Festival, per parlare dell'iniziativa che mette online i documentari di quella sezione. Davide, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Una nuova iniziativa di fruizione culturale ai tempi di contagio, raccontaci un po'. Tutto è iniziato sabato scorso, quando qualche amico ex GFF Doc ha messo online con un link aperto su Vimeo il suo film, che l'abbiamo subito ripostato, e poi ci siamo detti insieme ai miei colleghi di Paola Cassano, Mazzino Montinari, perché non aprire la pagina e trasformarti la pagina. Uso delle parole un po' diluente, credo, rispetto al mezzo, ma insomma, vabbè. Chiediamo agli amici, alle amiche, ai registi, alle registe che sono passate da TFF Doc, se vogliono aprire i loro link e mettere a disposizione dei reclusi in tempi di corona. E in effetti nel giro di due giorni la cosa si è diffusa, li postiamo anche su Instagram, dove abbiamo un account. Citiamo ovviamente sempre il Torino Film Festival, perché la pagina Facebook di TFF Doc è una pagina, come dire, unofficial, se vogliamo, nel senso che nasce addirittura prima della pagina Facebook del Torino Film Festival, un paio d'anni prima. L'abbiamo mantenuta, perché poi ci sono 3.000 contatti. Tra l'altro in questi giorni sono aumentati di 200 contatti in una settimana. 200 mi piace, come si dice. Poi ci abbiamo preso gusto, i registi ci contattano, ci mandano i loro film. Abbiamo fatto una cosa, credo, abbastanza inusuale, nel senso che abbiamo fatto la prima retrospettiva integrale, ma anche l'ultimo film, perché doveva essere presentato a Vision Durel e Vision Durel è stato annullato, di Kamal al-Jafari, che è un regista palestinese israeliano che vive a Berlino e di cui abbiamo fatto vedere molti film al festival. Narimane Mari ci ha mandato i suoi due film. Continuiamo a fare una programmazione di 4-5 titoli al giorno, e faremo anche altri piccoli omaggi e piccole retrospettive nel corso delle giornate a seguire. È anche un modo per cercare di dare un po' di senso non solo alle nostre giornate qua chiusi in casa, non sapendo che ne sarà di noi e neanche dei nostri festival futuri, ma appunto si tratta di dare senso al nostro lavoro, cioè di mettere a disposizione quello che ci piace, che conosciamo, che vogliamo far sì che anche altri e altre vedano. Si è avviata una sorta di interazione con chi vi segue? Sì, io ricevo dei messaggi, credo anche i miei colleghi, ci chiedono più informazioni sui film, a volte ci mandano dei commenti. No, è una cosa particolarmente piacevole, devo dire, in queste giornate. Ci lasci tutti i riferimenti? Sì, vabbè, la pagina Facebook è facebook.com/pffdoc, esatto. E la pagina Instagram credo sia uguale. Se cercate TFF Doc su Instagram lo trovate e trovate tutti i link dei film che stiamo mettendo su. Vi state muovendo con un flusso o state cercando anche di categorizzare in qualche modo? Ci stiamo muovendo con un flusso perché credo che poi Facebook sia un po' difficile da gestire da quel punto di vista lì. Ora stavo pensando magari di provare a fare dei post riepilogativi creando delle sorte di isole che fanno parte dell'arcipelago, ma insomma per dare un po' più di senso, meno fluttuante a tutto quanto, insomma. Il TFF Doc Online, documentari del Festival di Torino, sulla pagina Facebook e su Instagram, inclusi. E non solo, perché ci arriveranno film anche non passati a Torino, ma ormai accogliamo quelli che ci piacciono, perché no. Certo, tra l'altro ci sono anche autori che hanno postato i loro video autonomamente. Esatto. Sì. Allora, un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Davide Oberto. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima, Davide. Ciao Federico, un abbraccio. Ciao. Con Adriano Apradi, Fuori Norma, la via neosperimentale del cinema italiano, per parlare di Aprile Fuori Norma, più di 50 film in streaming gratuito. Adriano, ben trovato. Grazie. Partiamo da Fuori Norma, per chi ci ascolta spieghiamo cos'è. Fuori Norma è un'iniziativa che abbiamo avviato nel 2017 per valorizzare quei film italiani fuori norma, appunto, cioè stilisticamente diversi dal cinema mainstream che produce l'industria e che troppo spesso rimangono nascosti, poco visibili. Quindi abbiamo organizzato nel 2017, 18 e 19 più di 300 proiezioni a Roma e anche fuori Roma e all'estero. Adesso ci troviamo naturalmente, come tutti, in clausura, quindi abbiamo pensato di far vedere alcuni di questi film in streaming gratuitamente su una piattaforma. I film non sono stati scelti, sono gli autori che hanno aderito alla nostra iniziativa e probabilmente ce ne saranno anche altri del nostro pacchetto, chiamiamolo così. Ricordo il sito www.fuorinorma.org e da lì si rimanda ad Aprile Fuori Norma e si possono vedere i film. Si clicca sul titolo del film e si ha la scheda relativa al film, quelle che abbiamo poi pubblicato nei nostri cataloghi, e invece sull'immagine parte il film. È un'iniziativa che andrà avanti per più di un mese, è cominciata lo scorso 3 aprile. Sì, fino al 15 maggio, è una data che ci siamo dati così, pensando che forse dal 15 maggio l'emergenza sarà terminata, però se non fosse così, e temo ahimè che non sarà così, proseguiremo naturalmente con l'accordo degli autori. Ecco, a proposito di autori, quali sono i criteri di adesione a Fuori Norma? Il criterio sono io, cioè nel senso che se mi piace lo includo, se non mi piace non lo includo, ma devo dire che questa produzione, diciamo, indipendente, di livello qualitativo mediamente piuttosto alto, non è che ci arrivano proposte di filmacce qualsiasi, di cose commerciali, anzi, sono tutti film che meritano di essere visti, poi appunto il gusto personale, però io sono una lunga esperienza sia nei confronti del cinema italiano sia nei confronti di quello, diciamo, sperimentale, quindi penso di aver raggiunto una certa oggettività nel selezionare i film. Ecco, a questo proposito, qual è lo stato del cinema indipendente sperimentale in Italia? La parola sperimentale va intesa in senso largo, non si tratta di film, anche di film strettamente sperimentali. In genere quello che mi interessa è una riflessione sulla forma e sul linguaggio cinematografico. Direi che sta molto bene. Il cinema italiano, a mio avviso, in questi ultimi anni è uno dei migliori del mondo. Oso dire questo, ma quello industriale rischia di essere uno dei peggiori del mondo. Questa è la contraddizione profonda che è dovuta al fatto che ormai si può fare un film in casa, come dire, grazie al digitale, con mezzi molto limitati. Quindi non si parla più delle grosse produzioni che comportano un livellamento del linguaggio cinematografico, dei contenuti, delle storie che si raccontano sia in campo del cinema di finzione sia nel campo del cinema documentario. Insomma, c'è un rinnovamento che parte dal basso, che è spesso ignorato, anzi che è del tutto ignorato dall'industria, dai finanziatori, da gran parte dei produttori, ma che esiste e noi lo facciamo vedere. E allora in chiusura ci lasci tutti i riferimenti di nuovo? Certo, allora www.fuorinorma.org. Cliccando apparirà anche una finestra che dice Aprile fuori norma. Cliccando su Aprile fuori norma c'è la serie dei film. Se si clicca sul titolo del film si ha la scheda di presentazione del film. Se si clicca sull'immagine parte il film in streaming. Buone visioni. Aprile fuori norma, più di 50 film in streaming gratuito. Un saluto e un ringraziamento ad Adriano Aprà, curatore appunto di Fuori Norma, la via neosperimentale del cinema italiano. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. A presto. Con Letizia Cortini, una delle curatrici del progetto di didattica online dell'AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Letizia, ben trovata. Buonasera a tutti, a te Federico e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ci presenti questa iniziativa? Sì, dunque, in questo periodo di forzata emergenza a casa e quindi di teledidattica, l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico è una fondazione culturale che ha un patrimonio di cinema, soprattutto documentario, che va dagli inizi del Novecento fino ai giorni nostri, con particolare, diciamo così, importanza soprattutto per il periodo che va dagli anni 60 agli anni 80 del Novecento. Si tratta di film di militanza, di inchiesta, che riguardano il mondo del lavoro, che riguardano la società contemporanea dell'epoca, ovviamente la storia quindi contemporanea, ma anche la storia sociale, la storia economica del nostro paese, la storia del costume, la storia urbanistica anche, dei cambiamenti dal punto di vista della modernizzazione, dell'emigrazione nelle città, la storia dei movimenti collettivi, delle battaglie per i diritti dal punto di vista sociale, civile, politico, del lavoro, sindacale, eccetera. Quindi un patrimonio unico che tutto sommato è ancora molto poco o non abbastanza conosciuto, se non dagli addetti soprattutto del settore. E stiamo cercando da anni come Fondazione Culturale di renderlo sempre più diffuso e fruibile nel mondo della scuola, perché come fonti quelle audiovisive, cinematografiche stanno sempre più acquistando un'importanza fondamentale per appunto capire che cosa succede nel nostro mondo, che cosa è successo negli ultimi, dalla nascita del cinema in poi, perché il cinema ha sempre rappresentato, no, tutto quello che è successo nell'età contemporanea, e soprattutto come agente di storia ha creato immaginari, ha condizionato, no, le scelte, i consumi, le scelte politiche, eccetera. Quindi è fondamentale riuscire a diffondere questa, non solo film literacy, come si chiama, l'educazione proprio al linguaggio, no, cinematografico, che è diverso rispetto al linguaggio della parola scritta e verbale, ma anche un'educazione proprio all'uso di queste fonti per lo studio della storia. Quindi questa è l'idea da cui si parte. Proprio per questo l'archivio ha reso disponibile online migliaia di film del suo patrimonio digitalizzati, che si trovano, che sono accessibili sia sul proprio canale YouTube Fondazione Amod, basta digitare e la si trova subito, oppure sul sito www.amod.it archivi digitali, archivi online, e anche lì si fa la ricerca, e tra l'altro lì si trova il corredo anche di schede e di descrizione del film e altri materiali, tipo, non so, i nulla osta o i cosiddetti dischi censura, i testi dei dialoghi del film, per esempio, o del sonoro, del commento con le chiose e con i ripensamenti anche rispetto a quello che veniva poi detto. Insomma, un materiale unico a disposizione dei docenti, dei ragazzi, delle scuole poi di ogni ordine e grado, fino ad arrivare agli studenti universitari, anche in termini di storia dei territori, per esempio, storia locale. Il film è una fonte preziosissima e l'archivio appunto ha questo vasto patrimonio che riguarda sia il nostro paese, le nostre regioni, i nostri comuni, ma anche, tra l'altro, anche molto materiale che proviene dall'estero, dall'Africa, dall'Asia, dall'America Latina, dall'ex Unione Sovietica. Quindi, insomma, ecco, è un patrimonio tutto da scoprire e utilizzare, soprattutto nel mondo della scuola. Come è organizzato l'archivio? È suddiviso per aree tematiche, per cronologia? Sì, dunque, dal punto di vista proprio dell'organizzazione in termini di trattamento di questi documenti, si fa riferimento a degli standard che sono archivistici, per cui quando si descrive un film si fa sempre riferimento al suo contesto di produzione, da dove proviene, perché è importante sapere chi l'ha prodotto, chi l'ha conservato, chi l'ha diffuso. Anche questo appunto nel mondo della scuola va un po' spiegato ai ragazzi, no? Il film è un'opera collettiva, è un'opera che non è soltanto un autore, il regista, ma sono più autori, più persone che intervengono per la sua realizzazione, e soprattutto poi ci sono dei committenti, quindi bisogna capire anche chi è che lo ha voluto quel film, e quindi noi cerchiamo di restituire nelle nostre schede di descrizione tutto questo contesto. Poi in più abbiamo organizzato, per facilitare la ricerca da parte degli insegnanti e dei ragazzi, abbiamo organizzato dei percorsi online con delle playlist, quindi, per esempio, che sono anche ragionate, che sono presentate, che riguardano la storia del Novecento, dalla storia del mondo in generale, con molti film appunto, come dicevo prima, che provengono, che riguardano eventi che sono accaduti nel corso del Novecento in altri paesi rispetto al nostro, alla storia delle donne, per esempio, alla storia del mondo della scuola, alla storia delle città, perché sono tanti film che riguardano anche la storia di genere, per esempio, che abbiamo film e documentari preziosissimi realizzati anche dalle pochissime donne registe del Novecento, in particolare nel cinema documentario, quindi che hanno fatto la storia del cinema anche a livello mondiale, e abbiamo delle eccellenze. Nel nostro archivio sono conservati documentari di registi anche molto, molto noti per film di finzione, per esempio film di Scola, di Montaldo, dei Fratelli Italiani. Cecilia Mangini è la regista che nel 64 ha realizzato Essere donne, il primo film di inchiesta che ha anticipato le tematiche del femminismo in Italia, e le immagini ci catturano, sono veramente meravigliose le riprese, perché spesso bisogna anche distinguere tra sonoro e immagini, perché il sonoro, se può avere sul sonoro un'influenza maggiore anche la propaganda, no? Perché questi film sono stati in gran parte realizzati su committenza anche dell'allora Partito Comunista Italiano, bisogna dirlo, quindi anche in questo senso bisogna saperli contestualizzare e analizzare. Però si tratta di autori che erano anche molto indipendenti poi nel modo di inquadrare con il proprio sguardo, oltre a essere ovviamente dei grandi professionisti come i nomi che ho citato, quindi avevano un modo di riprendere la realtà, di inquadrarla appunto, che ci restituisce queste immagini dell'Italia, delle persone, i volti delle persone mentre lavorano, mentre parlano. Ecco, io invito veramente a fare lo sforzo, perché ora siamo abituati a consumare tutto molto in fretta, a fermarci ai primi secondi, poi andare avanti, no, velocemente quando si guarda anche magari un film, soprattutto se di carattere documentario. Se si fa lo sforzo di prestare un po' più di attenzione e si supera quel momento iniziale, poi si viene catturati da queste immagini che sono bellissime. Ecco, quindi percorsi online, abbiamo detto, tematici, il database da consultare che è organizzato in modo appunto secondo certi standard per restituire contesti, e poi abbiamo iniziato a produrre una serie di strumenti di analisi di queste fonti facendo degli esempi, e anche questi si trovano online sul sito dell'archivio. Però in questo caso bisogna andare in percorsi, una pagina specifica dell'archivio, oppure in attività formazione, e si trovano i primi contributi che stiamo appunto mettendo a punto, proprio di analisi del contenuto visivo, di come il tipo di esercizi che i ragazzi possono fare. Si parte proprio dall'esempio di alcuni film e a mano incrementeremo anche questi contributi di carattere metodologico. Questo tipo di operazioni, tra l'altro, di formazione e anche di analisi del film, lo facciamo anche per il progetto Ape Book, di cui avete già parlato. Sì, perché anche lì sono previste delle attività appunto che riguardano l'uso dei nostri film, per esempio. In chiusura diamo nuovamente tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, amod.it, archivi online, poi, e si inizia ad esplorare il database. Oppure, sempre su amod.it, percorsi, e da lì si inizia la navigazione per argomenti e per temi, e sono raggruppati per ogni tema: viaggio nel Novecento, viaggio nel mondo, viaggio nelle città, la storia della scuola, delle donne, i movimenti, la storia sindacale, del lavoro. Si possono vedere queste playlist ragionate, oppure su Facebook, noi rilanciamo molto in questo periodo, proprio un film al giorno pubblichiamo con una introduzione, anche qui basta cercare Amod e si trova subito, e poi sul canale YouTube Fondazione Amod. Ecco, per quanto riguarda il progetto di didattica online dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Letizia Cortini. Un abbraccio, in bocca grazie al lupo, a risentirci a presto. Grazie a tutti e anche all'archivio in generale e a tutto lo staff. Grazie Federico. Con Gaetano Capizzi per parlare di Cinema Ambiente a Casa Tua, una rassegna di film green in streaming a partire da venerdì 3 aprile 2020. Gaetano, ben trovato. Ciao, grazie. Grazie dell'interesse, del contatto. Presentiamo questa iniziativa. Abbiamo pensato di proporre una serie di film che sono passati questi anni al cinema ambiente, quelli sono un po' anche hanno vinto dei premi o sono stati diciamo particolarmente apprezzati dal pubblico, gratuitamente su internet, sul nostro sito internet www.cinemaambiente.it per la visione in casa, visto che non si può uscire, siamo appunto in questo regime giustamente di isolamento casalingo, però abbiamo cercato la collaborazione dei registi, dei proprietari di questi film, chiedendo loro di darci il permesso di poterli fare vedere gratuitamente a chiunque in Italia voglia collegarsi al nostro sito. E per la prima volta questi film sono fruibili via streaming gratuitamente, è una selezione, diciamo, è uno spazio che abbiamo aperto, che sta iniziando con alcuni titoli, ma abbiamo fatto anche un appello a altri registi e amici di mettere a disposizione il proprio film in modo tale che si possa ragionare di temi ambientali, di problemi relativi all'ambiente, anche diciamo stando a casa e collegandosi al sito o guardando sulla smart TV sul sito cinemaambiente.it. È stata una selezione ragionata? Sì, certo, è una selezione che tiene conto dei film che ci sono più piaciuti in questi anni, però hanno avuto comunque riscontro tra il pubblico del festival, ed è un'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente, per cui è il Ministero dell'Ambiente che ci ha così stimolati, no, in questo lavoro. Noi abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta, per cui tra il Ministero dell'Ambiente e il Festival Cinema Ambiente cerchiamo di raggiungere del largo pubblico possibile con film che affrontano vari aspetti della tematica ambientale. Ecco, ricordiamo anche a chi ci ascolta qual è la realtà di Cinema Ambiente. Cinema Ambiente è un festival di film a tematica ambientale ormai ultra ventennale che si svolge a Torino ed è organizzato dal Museo Nazionale del Cinema ed è un po' il festival appunto, che ha lanciato questo tipo di cinema, il cinema a tematica ambientale, che ormai è diventato quasi un genere cinematografico. Ci sono tantissimi film, tanti registi che producono film che parlano dei temi attuali, sempre più attuali mi verrebbe da dire, e c'è un concorso in cui si premiano i film migliori. Quest'anno il festival doveva svolgersi nella prima settimana di giugno, ma sarà rimandato in autunno, e abbiamo già avuto 3.000 film iscritti per la selezione, ecco, per cui è un festival che attira molto e riesce a proporre diciamo, i film migliori dell'anno e anche i temi diciamo, che sono più affrontati dai registi in quell'anno. Lì abbiamo una specie di panorama di quali sono le priorità ambientali dell'anno. Tornando alla selezione, più o meno quanti saranno i titoli a disposizione? Per adesso abbiamo 7 film, verranno programmati ogni 3 giorni. Il primo film inizia il 3 aprile e sarà online il 3, il 4 e il 5 aprile e poi lascerà spazio a un secondo film. Per cui iniziamo con una programmazione di 20 giorni, circa di 3 settimane, ma stanno già arrivando diciamo, adesioni di altri registi che mettono a disposizione i loro film, per cui pensiamo che questa rassegna possa durare tutto il tempo necessario finché non ci potremo ritrovare in una sala cinematografica a vedere film tutti insieme. Ci saranno orari o è sempre disponibile il film? È sempre disponibile, basta collegarsi e cliccare, ci sono delle schede di accompagnamento, spesso ci sono delle presentazioni dei registi che oltre a mettersi a disposizione del film ci hanno mandato anche una testimonianza, un saluto agli spettatori italiani, sono film che arrivano un po' da tutto il mondo, iniziamo appunto il 3 con questo film che si intitola L'elemento umano, The Human Element, che ha aperto il Festival Cinema Ambiente nel 2019. Questo è il primo e poi continueremo con La bugia verde, The Green Line, un film sul grande fenomeno del greenwashing che sta così diventato ormai usuale in molte multinazionali, molte aziende che promuovono i propri prodotti come green, mentre green non sono, un film vincente, una specie di inchiesta anche divertente su certi punti di vista e così via, insomma la plastica negli oceani, il picco del petrolio, sono tutti temi che in questi anni abbiamo affrontato e che secondo me sono molto attuali in questa situazione, diciamo, di crisi sanitaria mondiale, perché ricordiamoci, insomma, che queste pandemie hanno poi concrete radici sull'impatto dell'uomo sull'ambiente e anche, diciamo, la ricostruzione un po' dell'economia che ci sarà dopo questa crisi deve tenere conto dei criteri, degli sbagli che sono stati fatti in passato, così sostenere delle iniziative a basso impatto ambientale, applicare questo Green Deal che l'Unione Europea ha iniziato a finanziare, per cui ci potrà essere magari uno sviluppo, essere l'occasione per uno sviluppo industriale e sociale con un impatto ambientale minore di quello passato. Salutandoci, ci lasci nuovamente tutti i riferimenti? Per vedere il film bisogna collegarsi al sito internet www.cinemaambiente.it, cliccare su Cinemaambiente a casa tua e buona visione a tutti. Un saluto e un ringraziamento a Gaetano Capizzi per la rassegna Film Green in streaming. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, arrivederci. La regista Chiara Cremaschi, che fa parte della brigata Ermanno Olmi, registi e registe bergamasche, che hanno messo i loro film in streaming per sostenere la rete di volontari di Super Bergamo. Chiara, ben trovata. Ciao, ben trovato. Ci presenti questa iniziativa? Sì, volentieri. Allora, l'iniziativa nasce appunto da una costola di Super Bergamo, che è una rete di volontari che nasce inizialmente dal MAITE, che è un'associazione culturale che fa parte del Circolo dell'Arci. SUPER è l'acronimo di Supporto Unitario Popolare e Resiliente. Da subito ci sono messi in movimento dal 23 febbraio, perché come forse si saprà, Bergamo è una situazione molto dura da subito e c'era necessità e urgenza di aiutare le persone in difficoltà, soprattutto per la spesa, farmacia, bombole, ossigeno, così. E inizialmente tutto questo è stato fatto dai volontari gratuitamente, poi si è cominciato a capire che c'era bisogno di un supporto per anticipare la spesa e perché alcune persone che si trovano in difficoltà sempre più gravi potessero comunque avere almeno le basi per poter procedere. Quindi la Brigata Ermanno Olmi è solo una delle costole di Super Bergamo e nasce appunto come un primissimo gruppo di collettivo di registi a cui se ne sono uniti altri, adesso siamo tantissimi, sono quasi 30 e quasi 30 anche i film, principalmente cortometraggi e mediometraggi. Come funziona materialmente? C'è una piattaforma che si chiama appunto Brigata Ermanno Olmi, a cui si può accedere. Abbiamo fatto un pacchetto di lancio per cui si possono vedere 7 film facendo una donazione di 10 euro e dai prossimi giorni ci saranno diversi pacchetti a 12 o così, insomma, comunque sempre da 7 a 14 film alla volta e i soldi andranno direttamente a Super Bergamo. Allora, ogni pacchetto comprende, come ti dicevo, cortometraggi e mediometraggi molto vari, alcuni con delle produzioni consolidate, altri autoprodotti. Sono tutti film belli, abbiamo scoperto anche dei film, soprattutto quelli autoprodotti, molto originali, ben fatti, girati in situazioni incredibili e quindi appunto da una necessità di altro tipo è nata una scoperta cinematografica molto interessante. C'è una citazione anche di Ermanno Olmi molto interessante nella presentazione di questa iniziativa, che recita così: l'educazione non è il rispetto delle regole, ma il rispetto degli uomini. Esatto, l'abbiamo trovata quando abbiamo cominciato a pensare di far partire questa iniziativa, è una cosa che lui ha ripetuto in diverse interviste e l'abbiamo trovata perfetta sia per la situazione attuale sia come spirito attraverso cui volevamo muoverci, perché appunto nasce tutto dalla nostra situazione contingente e quindi ci siamo mossi su un'emergenza pensando che era quello che dovevamo fare in questo momento e quindi prima di tutto rispetto per le persone che sono in difficoltà in questo momento e poi se le regole ci chiedono altro si valuta la priorità è che tutti siano nelle condizioni di poter star bene, di potersi curare, di poter mangiare, questo è. No, rispetto alla situazione nella Bergamasca, è passato più di un mese dal blocco totale, ci sono alcuni elementi che stanno a monte di questo disastro, da una parte i tagli alla sanità, la privatizzazione, quindi tutto quello che ha comportato con l'assalto ai pronto soccorsi che non erano attrezzati per questa emergenza e quello che si è fatto, le politiche della regione Lombardia negli ultimi anni. Sì, quello che si è fatto rispetto alle RSA e poi per la mancata chiusura di molte delle industrie e quindi una diffusione del contagio. Sì, assolutamente, entrambe le cose, tieni conto che fino a 10 giorni fa le fabbriche della Val Seriana non hanno chiuso, adesso hanno chiuso il 90% ma premono per riaprire, quindi sì, grossissimi problemi politici sono alla base del disagio, soprattutto in Lombardia in generale ma a Bergamo in particolare, la Val Seriana che è uno dei focolai più importanti soprattutto per quello le fabbriche, una mal gestione dell'ospedale di Alzano e appunto ripeto una delle scelte politiche della regione Lombardia rispetto alla sanità gravissime. Chiara, ci lasci tutti i riferimenti per le informazioni? Sì, allora la cosa più semplice è andare sul sito che è molto facile www.bgolmi.it. Lì ci si può registrare, registrandosi si può scegliere a quale pacchetto accedere, donando appunto la piccola cifra che dicevo e poi si possono vedere i film del pacchetto, dei pacchetti che si scelgono in modo illimitato. Appunto, non sono film di grandi autori, ma sono tutti autori che hanno messo a disposizione i loro lavori con il cuore e quindi spero che chi li veda abbia lo stesso ritorno, insomma. Brigata Ermanno Olmi, registi e registe bergamaschi che hanno messo in streaming i loro film per sostenere la rete di volontari di Super Bergamo. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Chiara Cremazzi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie Federico, grazie. Ciao, a presto. Con il regista Tommaso D'Elia del collettivo di filmmaker Opponiamoci per parlare dell'iniziativa Testimonianze dal mondo Covid-19. Tommaso, ben trovato. Grazie Fede. Ci raccontaci un po'. Beh, questa è un'idea che parte da Ugo Avilardi, un importante documentarista italiano che peraltro è stato anche produttore di vari miei documentari che comunque tu anche hai recensito nella tua rubrica, Workers ad esempio dall'India, Sanjay Sumitra e molto altro ancora. Ugo è stato anche da sempre molto legato all'archivio audiovisivo e democratico del movimento operaio AMOT e all'interno di questa esperienza è nato questo collettivo alla quale si sono aggregati molti filmmaker romani e non solo e abbiamo prodotto molti materiali, molti video avendo anche e usando anche i materiali dell'archivio di AMOD. È un'esperienza molto interessante. Insomma, durante questo periodo di Covid-19 abbiamo pensato di aprire una rubrica che per l'appunto si chiama Testimonianze dal mondo Covid-19 e che pubblichiamo praticamente quotidianamente sul sito di arcoiris.tv, una vecchia televisione online di un nostro amico comune, Rodrigo Vergara, che ci ha dato degli spazi, insomma, e noi li stiamo utilizzando. Ti devo dire una cosa, che non essendo un'informazione mainstream, è particolarmente accattivante, infatti anche i risultati dagli scarichi, dalle considerazioni che gli utenti fanno, ci fanno sperare che siamo su una strada giusta, insomma, corretta, ecco, è molto interessante, c'è gente normale da varie parti del mondo, adesso ci abbiamo gli Stati Uniti con Carlo Siliotto, abbiamo fatto Vittoria Pasquini dall'Australia, Maria Petrone dalla Svizzera, dal Messico, dalla Cina, quindi insomma ci sono belle cose da vedere, insomma, da sentire. Che formato hanno queste interviste? Vengono fatte su una piattaforma che stiamo usando che si chiama Jitsi.org, è un open source e quindi, come dire, noi che un pochino siamo vicini alla democrazia digitale la preferiamo piuttosto che Zoom, piuttosto che Skype. Entriamo in collegamento attraverso questa piattaforma e registriamo, dopodiché questa roba viene mandata via WeTransfer, in questo momento sia a Simone Pallica che a Milena, due collaboratori fissi di Opponiamoci, due membri del collettivo Opponiamoci, Milena Fiore e Simone Pallica, i quali li stanno minimamente montando, cioè montano la sigletta, montano chi è, chi sono, e viene mandata a Modena dove viene processata e quindi messa dentro il sito. Devo dire che poi Arcoiris ha anche una pagina YouTube, quindi insomma, sai, nel giro di 6 giorni circa che abbiamo iniziato a pubblicare, perché è una testimonianza al giorno, beh, insomma, tra Arcoiris e YouTube credo che abbiamo superato le migliaia di visualizzazioni. Quanti sono più o meno i paesi che avete visitato? Proprio stamattina è uscita una testimonianza da Nuova Delhi, quindi dall'India, poi abbiamo avuto l'Australia, poi abbiamo avuto gli Stati Uniti, poi abbiamo avuto Barcellona, Madrid, Svizzera, Parigi, beh, insomma, parecchi. Adesso ci stiamo anche attrezzando un po' con l'Africa. Ma abbiamo, come dire, i problemi nostri sono di connessione, perché per l'appunto molti paesi, ad esempio dal Nicaragua non abbiamo ancora niente, ma sono già 3 giorni che provo un collegamento che riesce e non riesce, insomma, questi sono i problemi più grossi che ci abbiamo, per esempio per andare verso altri luoghi magari più remoti del pianeta, diciamo più remoti, ma solo nel senso meno attrezzati con le linee digitali, insomma, tutto qua. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, il riferimento è www.arcoiris.tv, che è un sito nel quale sulla home page affissi due link, uno il link di Opponiamoci dove abbiamo prodotto già una serie di cose, l'altro sempre un link di Opponiamoci ma con testimonianze dal mondo Covid-19. Opponiamoci, testimonianze dal mondo Covid-19, un saluto e un ringraziamento al regista Tommaso D'Elia. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Ciao a tutti, grazie. Con il regista Paolo Pisanelli di Festa di Cinema del Reale per parlare di cose invisibili, strategie di sopravvivenza. Paolo, ben trovato. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Raccontaci di questo nuovo progetto. Allora, prima di tutto grazie a Radio Onda Rossa, grazie a te Federico che fai sempre un lavoro eccezionale. Questo, vabbè, lo dico e lo ridico da tanti anni, ma sono fermamente convinto che è un lavoro importantissimo, eccezionale. Poi la radio, io credo anche che in questi giorni, ma sempre per me, è il primo mezzo, cioè non lo dovrei dire, primo è il cinema, ma la radio è quotidiana, è una cosa bella proprio, che fa parte della casa per me, veramente, non è invasiva. Che cosa abbiamo fatto noi per essere un po' più invasivi, ma in realtà con la festa di Cinema Reale noi abbiamo voluto un po' condividere tutte le bellezze dei film, dei video, delle sperimentazioni audiovisive che in questi anni abbiamo proposto, e quindi siamo partiti, abbiamo già fatto numero 01 e lo 02. In realtà eravamo pronti già con il programma per la festa di luglio nel castello di Corigliano d'Otranto, insomma un festone, però un attimino ci siamo dovuti fermare, vista l'emergenza, visto tutto il cataclisma, no? Che si è creato, i decreti che non si può uscire. In realtà al castello di Corigliano eravamo già pronti a stare a un metro uno dall'altro, perché sono spazi bellissimi e grandi. Però ecco, ci abbiamo un po' ripensato e abbiamo approntato con lo staff di Cinema Reale una redazione per dare forza a tutti questi film, a questi cortometraggi, documentari, insomma, che ci sembra bello proporre. Due temi: strategie di sopravvivenza, primo numero, e poi il secondo numero invece è la musica che cura. Chiaramente, essendo la festa di Cinema Reale organizzata da una cooperativa, Pixur, due associazioni, Officina Visioni e Cinema del Reale, abbiamo inizialmente aperto i nostri archivi. Perché? Perché chiaramente ne abbiamo i diritti, sono i documentari per la gran parte realizzati da me, e quindi troverete Buongiorno Taranto, troverete Il Sibilo Lungo della Taranta nel secondo numero, poi c'è anche Vituccio Terrecanti, un ritratto di un pastore cantore fantastico, poi c'è un omaggio a Gianfranco Mingozzi, c'è l'omaggio ad Agnès Varda, e poi alla nostra colonna di Cinema Reale, Cecilia Mangini, ci sono ben quattro cortometraggi: Ignoti alla città, con il testo di Pierpaolo Pasolini, Tommaso, e poi anche Maria e i giorni, e nel secondo numero La canta delle marane, che in realtà un omaggio a Egisto Macchi, grandissimo compositore eccezionale, che ha musicato questo capolavoro di Cecilia Mangini con il testo di Pierpaolo Pasolini, che segna proprio una svolta nel modo di raccontare nel cinema documentario italiano. È un ragazzo delle marane, un ragazzo di vita che si ricorda i tempi delle marane, della banda che si andava a tuffare nel fiume, nella marana, che era proibito. Insomma, è un modo di raccontare molto innovativo. Oltre a questo poi ci sono tantissimi suggerimenti di altri film, anche di animazione, Norman McLaren con le musiche di Oscar Peters, cioè ci sono veramente tantissime cose che è possibile vedere. Pian piano noi abbiamo creato dei collegamenti con altri festival, con l'Isre, Sardegna, con Vicoli Corti, col Cinsella, con cui collaboriamo anche per il primo maggio di Taranto, e quindi insomma c'è una rete, no, di festival, di autori, ma anche di produttori. Speriamo nel prossimo numero di avere anche un bellissimo film di Michele Mellara, Alessandro Rossi, Elisa Flaminia Inno. Poi ringraziamo anche la Cineteca Lucana, che ci dà la possibilità di mettere dei film bellissimi. Nel prossimo troverete il rapporto, il dialogo con le piante e gli animali. Ci sarà anche un corto di Bonifacio Angius, Domenica, che è proprio nasce dalla collaborazione con Isre. Cioè, sono tanti contenuti, però non troppi, anche perché c'è un bombardamento ormai di contenuti, e a noi ci sembrava il fatto di scegliere un argomento e metterne 10, così era un buon modo. Poi variamo un po', perché facciamo una collaborazione col 6 Festival, Sud-Est Indipendente, che si occupa di musica, quindi abbiamo messo anche Un'amara terra mia, cantato da Lee Ranaldo, Patrick Watson, Ninfa Giannuzzi, insomma, suonato dal gruppo che ha fatto la residenza del castello di Corigliano d'Otranto. Penso che sia molto interessante andare a curiosare un po' tra le cose che abbiamo pubblicato. E siamo aperti a tutte le collaborazioni e a tutte le tempeste che ci aspettano, anche alle bonacce. Paolo, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti? cinemadelreale.it. Sono le cose invisibili, in tra parentesi visibili. 01 e 02 è un invito a venire, ma l'invito più grande ve lo facciamo per la festa che speriamo di fare entro luglio, entro fine luglio, ma se no agosto, ma se no settembre, ma la faremo, quindi siete tutti invitati. E Federico, e tu non puoi scappare quest'anno, che ormai succede di tutto e di più, dovrai scendere nel Salento e venire alla festa. Bene. Cose invisibili per Festa di Cinema del Reale, un saluto e un ringraziamento a Paolo Pisanelli. Paolo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Un abbraccio forte, doppio, doppio a te e a tutti. Grazie. Okay. Grazie mille, grazie. La distributrice Emanuela Piovano per presentare Chi c'è in film resta a casa, 5 film in streaming gratuito. Emanuela, ben trovata. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Resistiamo. Sì, parlaci di questa iniziativa. Sì, allora è un'iniziativa appunto dettata proprio dalla emergenza, dall'insorgenza di questa drammatica situazione, che non vogliamo assolutamente in qualche modo contribuire a distruggere, ma invece vorremmo in qualche modo cercare di trovare il meglio nelle situazioni peggiori. Quindi non è assolutamente un'iniziativa per sostituire le sale che purtroppo hanno chiuso, non è assolutamente un'iniziativa che pensa che in qualche modo lo streaming possa essere il futuro del nostro cinema. Infatti per esempio nel logo abbiamo messo questo sfondo nero proprio per questa cucina economica trappicciata con stesi come panni le locandine dei nostri film, proprio per ricordare che esiste un nero profondo di accoglimento delle immagini dei film che non va assolutamente dimenticato. Ciò detto, ci sembrava invece un'occasione in cui le persone hanno più tempo e quindi forse quello sforzo che noi facciamo da tantissimi anni di a tutti i costi propagare e diffondere il virus della conoscenza di film molto particolari che richiedono tra l'altro anche, come dice il tutorial, se avete voglia di guardarlo c'è un tutorial per Kitchen Free, liberare il vostro appetito di cinema, questo saper degustare, questo saper essere molto attenti a questi film per i quali ci vuole passione, amore, libertà, ma anche un pizzico di pazienza. Ecco, ci sembrava che questa potesse essere un'occasione per continuare questa nostra propagazione, e quindi senza togliere al fatto che le sale da concerto sono il posto migliore per ascoltare un'orchestra, però quando si è anche rinchiusi nella propria stanza in attesa di qualcosa, aspettando Godot, è anche interessante poter leggere, poter rivedere, riscoprire, assaporare comunque questi film. Quindi la nostra campagna va nella direzione di questo e non è assolutamente uno schierarsi improvvisamente dalla parte di chi pensa che il cinema debba essere visto sul telefonino, ci tengo a dirlo. Ci spieghi anche la scelta di questi 5 titoli? Noi abbiamo un listino piccolino, comunque abbiamo in tutto una ventina, 25 film, ne abbiamo scelti 5 proprio per le analogie con la situazione che stiamo vivendo. Per esempio il primo che abbiamo scelto è Félicité, che è il film di Alain Gomis, che è un regista meticcio, che ha molto riflettuto sulle transazioni tra frontiere, tra realtà tutte bianche, tutte nere, quindi grigie, insomma sulle sfumature, e quindi anche sulle emergente, parla di una Kinshasa che potrebbe davvero essere un day after, come stiamo vivendo nelle nostre città, dove questa donna straordinaria che si chiama Félicité e che canta e che però non ha mai neanche pensato di riscuotere i suoi crediti con le sale che la fanno cantare eccetera, suo figlio si ammala e per l'occasione lei cerca di riscuotere questi crediti, e quindi è una sorta di biciclette in giro per Kinshasa, dove questa Félicité cerca disperatamente di salvare il figlio. Quindi ci sembrava una storia molto molto attinente. Liberi di correre, Filturane, un film invece di un grande atleta che è Pierre Morat, franco-svizzero, che ha aperto per la prima volta gli archivi americani della corsa ed è un'ode alla vitalità, al correre, quindi il mio consiglio se qualcuno ha un tapirulan, oppure adesso c'è questa dilagare di tutorial di tapirulan fatti in casa, no? Dall'olio che si mette sulle mattonelle a dei piccoli con i mattarelli, non so, ecco, vi consiglio di costruirvi un tapirulan e di vedere questo film che vi riempirà proprio di energia e anche di storia, perché si scopre per esempio che la corsa libera campestre era vietata fino agli anni 60, alle donne anche oltre, e non potevano partecipare quando è diventata una disciplina olimpionica, poi le donne non potevano partecipare, quindi è anche diciamo, una corsa nella storia. Corniche Kennedy di Dominique Cabrera è un film stupendo, sia Dominique che Claire ci hanno mandato dei loro messaggi perché appoggiano questa nostra iniziativa, e in questo momento anche loro reclusi, uno in Svizzera, l'altro in Francia, a Parigi, e Dominique dice appunto, io penso che questo film sia molto azzeccato in questo momento perché è un film invece tutto di spazio aperto, tutto gira con l'aperto, tutto gira da questa scogliera di Marsiglia dove ci sono questi ragazzi arabi che si buttano sfidando il destino come da Acapulco, come James Dean, no? Si buttano da queste rocce pazzesche e quindi non c'è mai un interno in tutto il film, quindi è il film perfetto per la reclusione di oggi. Poi abbiamo Le Rose Blu, che è il mio primo film importante, insomma insieme ad Anna Gasca e Tiziana Federano eravamo un collettivo, si chiamava il collettivo di Camera Woman, con il quale abbiamo fondato all'epoca la Kitchen Film, poi proprio per girare questo film, interamente girato in carcere, di Torino. Anch'io posterò una piccola presentazione, Steve della Casa ha postato ieri su Hollywood Party una bellissima recensione del film, perché era stato un evento anche a Torino all'epoca quando facevamo i primi passi insomma a Torino del cinema giovane eccetera. Il film aveva fatto anche un percorso internazionale. La cosa molto particolare per questo momento è che è stata un'esperienza forte di reclusione, abbiamo vissuto insieme alle detenute per qualche mese, e la cosa straordinaria è che in questa reclusione si sprigionava una sorta di libertà. Questo è un paradosso che la diamo ai nostri spettatori, se avranno voglia di vederlo, cioè questa libertà della comunità ritrovata. Quando ci si è costretti a convivere in qualche modo, diventa una riscoperta, e questo è un augurio veramente che facciamo, che questo momento di reclusione ci serva per riscoprirci. Infine chiudiamo con un bellissimo film, anch'esso come il primo, come Felicité, candidato all'Oscar. Felicité era addirittura nella shortlist dei 9, invece del Burano Sarajevo, Greca, Bambini Sarajevo, era candidato per la Serbia all'Oscar, e praticamente è un film dove questi due fratelli orfani, quindi in una situazione anche da day after in questa città, Sarajevo, sembra onirica, no? E noi pensiamo sia durante la guerra, in realtà c'è uno showdown finale, perché, vabbè, lo dico perché poi, come dico, non è un film di suspense, è comunque un film da vedere, da rileggere, da capire, da ascoltare, da godere, e quindi non ci importa di sapere lo famoso spoiling, secondo me per quei spoiler, per questi film non ha senso. Questa città fantasma, questa relazione tra questi due fratelli incredibile, e costellato da queste specie di, si sentono allontanato con queste specie di bombardamenti. In realtà poi si sta preparando il Capodanno in una città che ha finito la guerra, che è fuori dai conflitti e che però ancora vive sotto traccia questo trauma che l'ha completamente cambiata e che cambierà per sempre i rapporti. Anche questo comunque alla fine è un grandissimo messaggio di speranza, perché questa tensione che aiuta questa regista è giovane, molto molto brava, porta avanti per tutto il film e poi si sprigiona in questo abbraccio liberatorio che devo dire veramente arriva come, non so, una cosa che ti cresce dentro e che esplode esattamente come fuochi artificiali, molto molto bello, molto bello. Ecco, questi sono i 5 film per resistere, 5 cinericette per la cineresistenza. E concludendo, ci lasci tutti i riferimenti web? Certo, www.kitchenfilm, kitchen come cucina in inglese, quindi kitchenfilm tutto attaccato.it, e in homepage c'è già questo banner che si chiama appunto Kitchen Free. La cultura non si ferma, la cultura è resistenza, io resto a casa, si scorre semplicemente giù, c'è il tutorial, c'è Caterina Caricano, la nostra chef, questa bravissima giovane critica, e la nostra chef, quindi c'è la presentazione di Caterina, e poi ci sono le varie ricette, quindi direttamente si trovano le locandine dei film con la descrizione, basta cliccare o sulla locandina o sul titolo e direttamente si apre lo streaming gratuito. Kitchen Film resta a casa, 5 film in streaming gratuito, un saluto e un ringraziamento alla distributrice Emanuela Piovano. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto! Viva il lupo, viva il lupo! Oh. Mai come adesso, pertinente! Con Andrea Trenguelli del Postmodernissimo per presentare il progetto di Stanza, documentari e cortometraggi in libera circolazione sul web. Andrea, ben trovato. Ciao a tutti e tutte. Ci racconti? Innanzitutto vi racconto un attimo un po' chi siamo noi. Noi siamo Postmodernissimo, appunto siamo un cinema, un piccolo multisala che sta in centro storico a Perugia. Circa 5 anni fa abbiamo fatto questa impresa, abbiamo riaperto un vecchio cinema del Sé, che era il classico cinema anni 50-60, insomma, platea e gallerie, l'abbiamo trasformato in questo piccolo multisala. Tra l'altro stiamo su un quartiere abbastanza abbandonato della città, quindi abbiamo negli anni anche rivestito un ruolo sociale abbastanza importante in termini appunto di aggregazione basata appunto sulla cultura e sulla cinematografia, su quello che facciamo noi, sulle arti visive. E in questo senso appunto noi ci definiamo un cinema di comunità, un cinema che appunto mette al centro della sua esperienza e della sua gestione anche lo spettatore e le sue esigenze. Quando è successo quello che è successo ci siamo trovati innanzitutto, come tutti, principalmente molto soli. E è stato, anche per il tipo di persone che siamo noi, è stato abbastanza naturale cercare di trovare una maniera per non lasciare soli i nostri spettatori, ma anche per noi per tenerci impegnati. Quindi che è successo? In realtà è stata una cosa molto, molto spontanea e considerate anche questo, noi prima di essere un gruppo di persone che lavorano insieme, siamo un gruppo di compagni ovviamente e un gruppo di amici, siamo persone che si conoscono insieme e che stanno insieme da una vita, quindi c'è anche un grande portato emotivo in ogni cosa che facciamo e anche un certo senso di solidarietà e di questo tra l'altro siamo anche abbastanza fieri. Quello che è successo è stata che una nostra amica che è una collaboratrice, Gianluca Arcopinto, che lavora per la sua casa di distribuzione, che è la Pablo, ci ha lanciato questa idea, diciamo che è stato un'osmosi, ci è venuta insieme. L'idea qual era? Era chiedemo ai nostri amici, registi, produttori di case indipendenti, distributori, di regalarci un film o comunque di metterlo a disposizione fino al 3 aprile, poi quello che sarà lo vedremo, un prodotto della sua cinematografia. E alla fine mi è venuto fuori un bellissimo catalogo. Vi cito proprio delle mie preferite, anche se non è bello. Per esempio c'è La mosca cieca di Romano Scavolini, che è un film che è assolutamente da recuperare, di un autore che insomma forse è il momento di riscoprire, ma ci sono anche nomi importanti come Marco Bellocchio, sono moltissimi documentari anche musicali, per esempio trovate per i romani Romarcore, RMHC, quindi tutto Smellacciotti, sono anche molti documentari di movimento, come per esempio il Cim, ma anche prodotti di una certa qualità cinematografica, anche di Hitchcock, che tende a citare esempio di Terra Pax, di Cotrugno e Coluccini, la famiglia cecena di Solari, insomma, è veramente uno per un bel catalogo, io non voglio neanche rubare la sorpresa di vederlo, perché questa sia una cosa carina, andatelo ad aprire come uno scrignetto e vedete quali sono le cose che vi piacciono all'interno. Ecco, quanti sono i titoli a disposizione? Allora, ad oggi, giovedì, che sono, non devo dire precisi, ma ad oggi sono circa una quindicina e ne stiamo per aggiungere altri 4, ma è un processo continuo, in continuo ce ne arrivano, anche perché comunque l'iniziativa sta girando e penso che molte persone hanno condiviso con noi questa idea che forse ad oggi la libera proiezione, la gratuità fosse un punto importante da affrontare, da mettere in campo in tempo. Questo perché lo dico? Perché noi già come operatori culturali siamo sostituiti molte volte allo Stato su bisogni anche minimi, come appunto banalmente avere un prestigio culturale in un quartiere completamente spento o molte altre cose. Insomma, noi non ci fa paura che mi fido della delega e di solito noi ci mettiamo sempre in prima linea per ogni cosa, però forse in questo momento adesso chiedere ai nostri spettatori di sostenerci economicamente forse è un po' troppo, magari sono altre cose, altre situazioni, tra l'altro noi a quanto pare godiamo anche di una cassa integrazione per quanto assolutamente insufficiente, quindi diciamo che per questo primo mese eravamo più o meno a posto, ci abbiamo molto tenuto che l'iniziativa fosse gratuita. Questa cosa è stata condivisa da molti evidentemente che da un momento in cui noi cercavamo i film, ci siamo trovati adesso in una situazione in cui ce li stanno mandando. Quindi il catalogo è in continuo aggiornamento. Una curiosità anche al di là dell'emergenza virus, visto che siete comunque in una città studentesca e molto giovane, volevo sapere anche com'è la fruizione culturale, rivolta al cinema, all'arte e alla cultura. Perugia è una città che, come tutti i centinaia di provincia, appunto, ha subito tantissimo le situazioni dei multisale alla fine degli anni 90. Cioè, quello che noi abbiamo trovato sostanzialmente quando abbiamo aperto era un deserto. Quello che penso noi siamo stati forse più bravi, se ce lo dico da soli, è stata quella di crearci un pubblico. Tu considera che a Perugia sono successe molte cose, anche fatti di cronaca, anche abbastanza tragici, omicidi di vari situazioni abbastanza sconvenienti, che in pratica hanno falcidiato i numeri dell'Università di Perugia. Quindi tutti chiaramente conoscete Perugia come una città studentesca. Ecco, questo suo carattere l'ha perso non in termini di identità e di identità, però l'ha sicuramente perso in termini di numeri. Quindi noi in sostanza quello che abbiamo fatto è stato quello di crearci. E non è stato facile da un certo punto di vista, però appunto noi ci abbiamo tenuto che noi non fossimo semplicemente una sorta di biglietti, cioè un posto dove appunto il film si consuma. Da noi vieni è una comunità, c'è un bar, fatti di condivisione, si può stare insieme, è un posto dove puoi venire al di là delle fruizioni cinematografica. Quindi per rispondere alla tua domanda, la fruizione del cinema oggi a Perugia in sala è complicata come in qualsiasi altro centro di provincia, che ha subito il impoverimento, che ha subito la depauperazione dei servizi televisivi oggi, insomma. E questa è la situazione a cui ci siamo improntati. E ti devo dire, siamo una cellula di resistenza, insomma, tutto questo, e dei risultati li otteniamo in realtà, quindi non ti dico questo intento assolutamente positivo negativo. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per distanza? Allora, chiaramente noi abbiamo un Facebook e un Instagram, sono facebook.com/postmodernissimo, che ci trovate su Instagram come postmodernissimo, dove abbiamo anche il catalogo di distanza. Ma la cosa più semplice è che andate su postmodernissimo.com/distanza, scritto così com'è. Distanza, documentari e cortometraggi in libera circolazione sul web. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Frenguelli del Postmodernissimo di Perugia. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie, ciao ciao. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.